nostra, seppure con un po' di ritardo, riprendiamo la diretta. È il giovedì a Regola d'Arte di Radio Città Fujiko, vede una coppia protagonista. Trash de Ville, il titolo delle esposizioni, una summa di lavoro per una scultura iperrealista dove la ceramica è protagonista. A Palazzo Tozzoni, al Museo San Domenico, alla Rocca Sforzesca, quando io appunto ho avuto motivo di approfondimento, di conversazione con il curatore Diego Gallizzi e oltretutto per curiosità anche vedere alcune immagini, sicuramente andrò a vedere queste mostre, perché un iperrealismo in scultura dove la ceramica in maniera inconsueta ma quanto mai spettacolare diventa protagonista è qualcosa assolutamente da non perdere. Parliamo di Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni, quest'ultimo recentemente scomparso, una coppia in arte, un lavoro in tre sedi espositive, e quindi la cittadina romagnola di Imola, dove loro sono originari e dove loro hanno dedicato ampio spazio per trovare un lavoro e uno sviluppo artistico, come vi ho già detto, molto particolare. Dire spettacolare è qualcosa che va un pochettino a tradurre in maniera primaria quella che è la creatività di questi artisti. Riportare la ricerca, il lavoro e invece quello che è un dialogo attraverso i tempi è più attinente, allo stesso tempo esserne coinvolti totalmente aggiunge al percorso artistico qualcosa di coinvolgente. Quindi ascoltiamo la voce per conoscere in questa prima parte di conversazione Diego Gallizzi, curatore della mostra Bertozzi e Casoni, Trash de Ville. Parliamo di questa coppia d'artisti. Beh, Bertozzi e Casoni sono intanto una realtà molto importante per Imola, non a caso la città, l'amministrazione hanno pensato, hanno voluto fortemente questo progetto ad Imola, perché sono una realtà artistica conosciuta a livello internazionale che lavora da anni, ormai da 40 anni ad Imola. Quindi questo è un po' il perché di questo ambizioso progetto espositivo qui in città. Bertozzi e Casoni, perché sono così conosciuti a livello internazionale? Beh, se devo sintetizzare, loro sono una sorta di rule breakers, hanno un po' scardinato quelle che erano le logiche e le tradizioni della ceramica artistica, innovandola da molti punti di vista, in particolar modo dal punto di vista tecnico. Attraverso il loro lavoro la ceramica riesce ora a raggiungere dei livelli di mimetismo finora impensabili, ma anche a livello concettuale. Grazie al loro lavoro la ceramica artistica ha un po' rotto antichi steccati e si è impossessata di dimensioni, per esempio, della scultura monumentale, e quindi diciamo lavori che ora hanno ambizioni molto molto più grandi, se devo dire, per sintetizzare e anche un po' per sorridere. Bertozzi e Casoni non amano tantissimo essere definiti come ceramisti o quantomeno come puri ceramisti, amano considerarsi degli artisti che utilizzano la ceramica per fare grande arte. Iconizza al contralto, Marshall Brown al trombone, brano Tutti i tempi, Strutting with the Sun Barbecue. Thank you. Applauso, applauso, veramente un brano meraviglioso. È un duetto tra Lee Konitz e il trombonista Marshall Brown, Strutting with Some Barbecue. Anche qui rompiamo gli steccati con un'attenzione per un duetto tra contralto e trombone che diventa in questo blues, in questa marching song, qualcosa di non solo dalla bellezza estetica e di ascolto, ma anche nella costruzione tecnica di spettacolare. Allo stesso modo ho portato questi duetti, Bertozzi e Casoni, nel Tranche de Vie per le tre esposizioni che saranno a Imola fino al 18 febbraio a Palazzo Tozzoni, a Museo San Domenico e Rocca Sforzesca. Ho portato attenzione alla conversazione con il curatore Diego Gallizzi a due aspetti, appunto questa rottura di steccati e innovazione, e allo stesso modo la realtà artistica che non è semplicemente, anzi loro non volevano essere definiti ceramisti ma piuttosto artisti, e ne hanno ben donde, e trovare nella ceramica protagonista ma allo stesso tempo una sorta di mimetismo. Beh, ogni volta mettendo un pochettino anche i contenuti, e per quanto riguarda il discorso di conoscenza degli artisti, è un po' particolare come al solito parlare di ispirazione dal passato, ma ho voluto osare e saperne di più al riguardo un incontro con una sorta di classicità. C'è un'idea di classicismo, c'è un'idea di forte radicamento alla tradizione della nostra storia dell'arte. Questo è, loro ci tengono tanto a ribadire questo, che comunque rimangono nel solco della nostra tradizione artistica, intanto ceramica ma anche della grande storia dell'arte. Chi verrà a vedere la mostra, in particolare la mostra allestita a Palazzo Tozzoni, troverà, e poi non sono semplicemente delle citazioni, sono proprio dei lavori ispirati al passato. Posso per esempio a Giorgia Morandi, per esempio ad Archimboldo, con degli splendidi busti realizzati proprio con alla base i lavori di Archimboldo, fino a venire a momenti un pochino più recenti anche citazioni di Andy Warhol oppure a Ingres. C'è ecco, in particolare il lavoro che è stato fatto su Ingres, sulla Mademoiselle Riviera di Ingres, è un lavoro molto particolare che è presente in mostra ed è installato nell'appartamento intero di Palazzo Tozzoni, con un dialogo credo anche molto sottile tra appunto la cronologia degli ambienti dove è ospitata quest'opera e il fatto che stiamo parlando di un'opera a cui si ispira questa grande scultura, sostanzialmente coeva l'appartamento. Thank you. Le corde di Jim Hall insieme a Lee Konitz, ho portato duetti in colonna sonora per il duo Bertozzi e Casoni, e intanto che siamo, si può dire, entrati in mostra anche con un aspetto dialogico tra le sedi espositive, di cui parleremo in maniera più approfondita nelle prossime conversazioni con il curatore dell'esposizione a Imola. Oltretutto, per quanto riguarda il dialogo invece con il motivo di conversazione, di intervista che abbiamo appena ascoltato, beh, è stato citato Ingres, uno dei grandi romantici, che viene completamente rivisitato ma nello stesso tempo citato, con dei lavori che sono assolutamente in parallelo con la sede espositiva. Viene riportato anche Morandi e tanti altri per quanto riguarda un discorso comparativo che non manca in tre sedi espositive. E a proposito di sedi espositive, una mostra con opere che sono in versione eterogenea in ogni sede espositiva riportata, e quindi certamente con un percorso esaustivo per i due artisti, ma anche molto particolare. Più che una mostra in tre sezioni, la considero una triplice mostra. Sono tre mostre, perché ognuna di questa mostra è un'anima e parlano un linguaggio diverso. La prima mostra, che è intitolata In Nuce, ospitata al Museo di San Domenico, racconta quelli che sono gli anni più precoci di Bertozzi Casoni, dalla fondazione della società della Bertozzi Casoni nel 1980, proprio qui a Imola, fino all'incirca la metà degli anni 90. Questo è un percorso molto interessante, perché è assolutamente inedito, nel senso che mai prima d'ora sono state esposte le opere di questo periodo così precoce di Bertozzi Casoni. In Nuce, perché In Nuce? Perché il visitatore qui vedrà una serie di oggetti d'arte, di ceramica e maiolica dipinta soprattutto, ancora un pochino legati dal punto di vista tecnico alla grande tradizione della maiolica, che si agganciano spesso e volentieri anche al mondo del design, dove tuttavia si riesce già a carpire un sacco di riferimenti di quelle che saranno le caratteristiche poi di Bertozzi Casoni come li conosciamo oggi. Quindi in particolare questo senso di leggerezza, di innocenza e anche di ironia che mettono sempre nelle loro opere. Mm-hmm. Messaggio al 333-180-9494, bellissimo, grazie, penso sia riferito al brano di Lee Konitz e Brown Marshall, al duetto fra trombone e sax contralto. Grazie all'ascoltatrice, all'ascoltatore che sui 103.1, ma al 333-180-9494, io coi numeri non sono mai andato tanto d'accordo, Al violino Ray Nance e al sax tenore, in questo caso nel duetto che vi sto proponendo, Lee Konitz. Siamo entrati in Museo San Domenico per quanto riguarda questo Tranche de Vie, il titolo che comprende tre sedi espositive per una mostra che dà una continuità. Abbandonate veramente allo stesso modo io una mostra sulla ceramica. Io apprezzo molto, anzi tantissimo, però mi rendo conto, insomma, è una specificità. Ecco, qui abbandonate ogni pregiudizio sull'aspetto legato alla ceramica. Sì, appunto, come ha detto il curatore Diego Gallizzi, non solo uscire dagli schemi, ma anche una sorta di mimetismo per un iperrealismo in scultura per due artisti veramente molto, molto ispirati. Per le altre sedi espositive abbiamo la seconda parte della rubrica in mostra, un po' di musica e poi si torna in diretta sui 103.1 di Radio Città Fujiko. A tra poco. un pochettino dalla narrazione musicale dedicata all'esposizione odierna. Loro sono i Matters con Art Age. Gonna go through changes, changes for you, baby. Yes, I will. Ma riprendiamo subito e continuiamo nelle tre sedi espositive per un percorso che dà continuità al Trash de Vie. Bertozzi e Casoni sono a Imola fino al 18 febbraio 2024. In Nuce è la parte della mostra allestita al quadriportico del Museo San Domenico, che contrariamente a quella di Palazzo Tozzoni, per quanto riguarda i percorsi, a questo punto usiamo il plurale, in mostra, è tutta improntato sulla narrazione di una mostra inedita che per la prima volta vuole raccontare Bertozzi e Casoni prima di Bertozzi e Casoni, cioè prima che la messa a punto di quel linguaggio così particolare e, come abbiamo detto più volte, di rottura che oggi caratterizza inequivocabilmente il duo imolese, facesse rompere la loro proposta artistica in qualcosa di veramente molto più ampio e universalmente riconosciuto. È ricca di una sessantina di pezzi, la mostra mette in luce le ricerche e le fasi espressive degli artisti. Come ho detto, ora continuiamo con quello che è invece in una parte nobiliare e, come sarà anche in maniera ironica, in dialogo con questa sede che è Palazzo Tozzoni, appartenuto a dei nobili, appunto. La seconda mostra, Palazzo Tozzoni, parla un linguaggio molto diverso, non è un linguaggio narrativo, è un linguaggio che definirei teatrale. È una grande messa in scena quella che noi abbiamo allestito a Palazzo Tozzoni. Abbiamo fatto una selezione molto puntuale di alcune fra le più famose opere di Bertozzi Casoni, se ne contano 35 all'interno del palazzo, quindi sono una mostra molto importante. Sono opere che sono in stretto dialogo, in sottile dialogo proprio con gli ambienti del palazzo, con gli oggetti che sono conservati nel palazzo, con le suppellettili, con le opere d'arte. In questo senso una messa in scena, perché si crea a un certo punto una sorta di gioco fra realtà e finzione. E quindi, in sostanza, Palazzo Tozzoni abbiamo fatto del teatro. C'è molto teatro, a mio avviso, nell'opera di Bertozzi Casoni, proprio perché che cos'è il teatro se non una dialettica fra realtà e finzione, che poi è la caratteristica peculiare di Bertozzi Casoni. Il terzo ingrediente, la terza mostra, in realtà è una grande installazione che abbiamo collocato all'interno di una delle torri medievali della Rocca Sforzesca di Imola. Qui si tratta di un'opera sola, un'opera molto molto particolare, forse l'opera più dalla concezione più lunga e più travagliata di Bertozzi e Casoni. Voi pensate che questa installazione, che si intitola La morte dell'Eros, è stata concepita già nel 2000, quindi un percorso che dura da più di 20 anni, fatto di prove, di ripensamenti anche, insomma una concezione molto travagliata. A quest'opera in particolare si è dedicato Stefano Dal Monte Casoni, che come sapete è mancato recentemente. Ed è rimasta incompiuta quest'opera, e in occasione di questa mostra ci siamo guardati, io e Giampaolo Bertozzi, e mi ha detto: forse è l'occasione di portarla a termine, l'ha compiuta Giampaolo, portarla a termine proprio in occasione di una mostra imolese. Quindi per la prima volta viene esposta questa straordinaria opera di grandissimo impatto all'interno della Rocca Sforzesca. visto che è una mostra assolutamente omnicomprensiva e estesa, ho voluto dedicare il disco di Liconit Duets, che duetta per la maggior parte dei brani con altri grandissimi del jazz, e conclude come questo disco? Con l'All-Star Game, con tutta la formazione presente, e vado a citarli. Allora, abbiamo Jim Hall alla chitarra, abbiamo Elvin Jones alla batteria, abbiamo Brown Marshall al trombone, e insomma ne aggiungo anche altri a breve, perché così a memoria, tac. Joe Henderson al sax tenore, ad esempio, Eddie Gomez, l'ultimo contrabbassista di Bill Evans. L'organo Larry Young, di cui abbiamo parlato al Moved Groove su uno speciale per l'organo Hammond. Comunque particolare l'idea in occasione di questa mostra, portare a termine un'opera e addirittura metterla in una sede espositiva molto particolare, la Rocca Sforzesca, che porta a conclusione il nostro motivo di dialogo con il curatore, che ringrazio, Diego Gallizzi, ma che certamente in questo spaccato di vita, tranche de vie, dà importanza ulteriore con l'idea, anche l'emozione, di portare a termine un lavoro che è stato concepito nel 2000, poi è stato interrotto e poi è stato ripreso per concludere questa realtà artistica veramente molto importante. La morte dell'Eros in Rocca Sforzesca, opera unica e installazione, come ho detto, nella suggestiva Rocca Caimolese. Trash de Vie, allora vogliamo saperne di più a proposito di questa denominazione e titolo della mostra. Beh, Bertozzi e Casoni sono attratti nelle loro opere dalla quotidianità, dal nostro quotidiano. Per loro qualsiasi oggetto è degno di interesse. Abbiamo voluto sottolineare questo aggancio con la quotidianità è riportata nelle loro opere, in particolare per la mostra collocata dentro a Palazzo Tozzoni, perché per la scelta delle opere che abbiamo fatto è come se il visitatore si trovasse in una situazione, come se fosse un ospite inatteso che piomba all'interno di una normale giornata di vita quotidiana dei Conti Tozzoni. E quindi queste opere che raccontano anche in maniera molto ironica quello che poteva essere la loro vita quotidiana allora, o la vita, o come sarebbe stata la loro vita quotidiana oggi, attraverso delle opere collocate a volte in sintonia con gli ambienti che le ospitano, a volte in aperta provocazione. E quindi è fino al 18 febbraio 2024 in quel di Imola, Bertozzi e Casoni, Trash de Vie. Io ringrazio tantissimo il curatore Diego Gallizzi ai microfoni di Radio Città Fujiko per la rubrica In Mostra, e ci diamo appuntamento per un altro incontro. Grazie. Grazie. Grazie a voi e vi aspettiamo ad Imola. Thank you. Lei fenomeno, trombettista Steph Richards, l'abbiamo ascoltata al Torrione in questo viaggio musicale, una fiaba concreta attraverso i sensi e una capacità d'incanto, nonostante un linguaggio forbito e non immediato. Talento dell'avanguardia lei, e vorrei concludere proprio con questo brano. Sono le 8:47 minuti, quindi è terminata la nostra prima colazione in diretta. Parto, vado in trasferta, sarò alla presentazione di un'esposizione molto particolare, ma non vi anticipo nulla, la porteremo in diretta giovedì prossimo per la rubrica In Mostra. Intanto vi ricordo che a breve avremo l'Edipè Enciclopedico, seguirà Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquale, e quindi il giovedì con il rock di Angela Zocco e Andrea Gozza. Bertozzi e Casoni, protagonisti quest'oggi e protagonisti a Imola, Tranche de Vie sarà fino al 18 febbraio 2024, Palazzo Tozzoni, Museo San Domenico, Rocca Sforzesca a Imola. Appuntamento a domani in scena, si alza un sipario su un palcoscenico ricchissimo già anticipato oggi con ITC Teatro, e per quanto riguarda il Breakfast Club odierno è veramente tutto. Vi auguro un buon ascolto sui 103.1, è arrivato anche un raggio di sole ben consistente, non mi resta che mandare un grande abbraccio alle ascoltatrici e agli ascoltatori dei 103.1 e aspettarvi puntuali alle ore 7 per domani, vigilia di weekend, e fare colazione assieme a voi. Buon ascolto e buona giornata, ciao a tutte, ciao a tutti.